purtroppo sta iniziando la partita. Ciao. Ciao qua, ciao, sto facendo solo repararlo. Ho finito comunque, ciao, dopo, ciao. Via, sta iniziando la partita giù. Dai, ci sentiamo dopo, almeno per il primo e secondo tempo. A giù mi aveva fatto un turnover. Vabbè, adesso vediamo cosa succede. Stavo dicendo, qua fischi ci sono, con la radio va bene così. Assolutamente no, bellissima, pulita, forte e chiara. Ok, no, stavo regolando le vacche e tutto, insomma, ecco. A 10 watt lo sto regolando, va bene così, dai. Ok, qua, a dopo allora, ciao, il lavoro è andato bene, finito. Questo non funzionava, l'ho messo a posto, per cui, o meglio, funzionava solamente in banda M, non funzionava in AM e in FM. C'erano dei contatti un po' disallati, allora li ho rifatti per voluto Sant'Antonio, ma ci appalli perché ci vuole una rete di grande vento, comunque già l'ho trovata. Io sto usando Mindacchi con le mie BP5 già da qualche giorno, ma ormai non faccio andare sto barraccone. Va bene Giulietto, ci sentiamo dopo, dai, ci guardiamo sta partita, vedi cosa ne esce stasera. Ok, ciao qua, a dopo, dai. Qualcuno in ascolto? Hola, c'è qualcuno in ascolto sul canale 10? Stiamo guardando la partita, stata lì, a dopo, là, dopo la partita. Non ho capito che c'era mia moglie, dimmi. Ho detto che stiamo guardando la partita, io e Claudio. Ah, cappa. Vabbè, io già sono qua in ascolto, ciao. Ok, ciao. Dove sto scendendo? La radio pulita, Già stai uscendo bene. Ok, no, questo era un baracchino che non funzionava, se lo messo a posto adesso. Ok, ciao, a dopo. Buttaci tutto. Ah. Buttaci tutto. Via, mi sa che lo faccio. Caro Talino, io mi siamo fatto una passeggiata in macchina, sono passato per Plotamona, poi dove c'è quell'hotel, no? Andando in quella viuzza, i parcheggi scomparsi, tutto marciapiede hanno fatto, a parte la corsia di marcia. Prima lì parcheggiavano per andare al mare, adesso è tutto marciapiede, e hanno messo i blocchetti, proprio per non andare sul marciapiede. Ma io non ho capito, ma credono che la gente lì in estate vada per passeggiare sul marciapiede, la gente vuole parcheggi per andare al mare. Io non capisco perché questo schifo, questa presa di posizione. E poi i parcheggi li vanno a mettere a Lido Iride, che non si può accedere, che è tutto rettili. Poi non ti dico niente del quinto pettine del quarto. Al quinto pettine è piccolissimo il parcheggio per le macchine, ce ne saranno 5, 6, 7 in quella piccola rotatoria. Tutto il resto hanno fatto gli stazzi per le pecore, lo sai, per modo di dire, hanno fatto con legno queste piccole aree. Uno schifo, hanno rubato i parcheggi, ma non ho capito perché vogliono rovinare l'estate turistica, non lo capisco. E quello è quello, il sindaco di Sorso è quello mio, proprio uno schifo ha fatto, non lo so che razza di mentecatto sia, non lo so, sia il comune di Sassari che di Sorso proprio vuole rovinare la stagione estiva. I turisti non ci vengono se vedono tutto marciapiedi e nessun parcheggio. Per fare cassa e per fare le multe, perché manco sulla strada puoi parcheggiare, vedrai cosa tutti fanno. Sì, avevano già detto sulla Nova che quest'estate a bordo strada non si poteva parcheggiare. Ma allora, se volete incassare, mettete i parcheggi a pagamento. Ma almeno fateli i parcheggi. È inutile fare tutta marciapiedi. Proprio degli imbecilli nati, Natalì. Sta tutto cambiando in peggio. E infatti, se vuoi andare a mare, non ci puoi andare perché dove parcheggi la macchina? Guarda, per Plotamona c'è solo il vialone, il viale che va alla rotonda. E sinistra c'è la zona parcheggi, però ti devi fare un bel pezzo a piedi, con la roba pesante, magari per il mare, tra ombrellone, zaino, insomma quello che è. Vabbè, però almeno lì, dall'altra parte è tutto parcheggi. Guarda, se, la roba dovrebbe cambiare in meglio, ma cambia sempre in peggio. Poi il quinto pettine non ne parliamo. Il parcheggio è ridicolo, ridicolo, demenziale diventato. Poi questi stacci per le pecore, non lo so cosa aveva, cosa si è fumato il sindaco o cosa si è bevuto quella volta che ha preso questa decisione. Basta quando vengono i vigili a mettere le multe, armarsi di lata da baseball e ridurli in sangue. Vedrai, la popolazione si deve girare. Ci hanno rotto i coglioni, usando la frase. Ma la popolazione non si gira. Il popolo è bue. Il popolo è bue, subisce quello che fanno. Capito? L'italiano si gira solo se gli levi lo stipendio. Proprio se gli togli lo stipendio e la pensione, allora forse inizia la guerra civile. Se no, se ne affutti. Attimare i miei bucini, se i parcheggi a Nastro, a Rivata, a Curì, un bel niente. Cosa cazzo, quasi negli stronzati. L'avevi ammazzati, gli italiani. Basta andare che se mettono una bomba al comune. Meglio. È lo stesso che ha fatto Sana in Via d'Italia. Ha fatto scomparire i parcheggi di Via d'Italia che erano utili. Ti garantisco che lo erano. Sia che va a negozi, sia che va al policlinico. Tutto, fino a Via Rockefeller sono scomparsi i parcheggi. Ha messo questa pista ciclabile per far passare un pirla in bicicletta, un pirla ogni tanto in bicicletta. Sarebbe da fare proprio una, non so, cosa vuoi ti dica, sta lì. Io una rivoluzione la farei, ma con chi la faccio? Tu fanno quattro gatti e gli altri, no, dice, non ci intromettiamo, lascia fare le battaglie agli altri, capito? La metropolitana di superficie hanno fatto lì, ma di succede di rumore, in chi li stessi che ambulanza con un marato, ridico. Ma poi perché metropolitana di superficie? Chiamalo tram, il tram va sui binari, quello è un tram volgare. Capito? Quelli invece a gomma sono autobus, li chiamano tram ma in realtà si chiama autobus. Perché metropolitana? Per farci grande, la metropolitana di superficie è un tram, uno schifosissimo tram. Ehi, da Cagliari li hanno tutti, cazzo li hanno messi qua che non c'è posto, che ti vedi a Gigi, che... Di Susanna è un testa di cazzo. Deia. Guarda, non sono voluto andare avanti, Avrei voluto vedere la marina di sorso, però poi ho sbagliato e sarei dovuto tornare di nuovo indietro per oltre 2 chilometri. E ho lasciato perdere, dai. Insomma un bel giro me l'ho fatto, il mare era quasi olio, era proprio calmo, era solo accarezzato da una breccia che proveniva dal nord-ovest, però era calmo, bello, bello, c'era, vabbè, pochissima gente. Dove c'è quell'hotel che ti ho detto, al gomito, c'era una persona in spiaggia, che dove la metti la macchina? Proprio sono dei mentecatti, gente che non ha... Cioè, portali turisti, portali, non farli fuggire. Poi si lamentano, i turisti non vengono qui. Vabbè, se ci sono giunte di pirla emeriti, giunte comunali di imbecilli. E allora, il sindaco è un'esimia testa di cazzo. Sì, ma non solo lui, anche quello di Sorso a quanto pare, perché lo scempio del quinto poi ha fatto questa passerella, no? Per arrivare in spiaggia, che anziché essere dritta, è fatta tutta a gomiti, poi prima gira sì, poi gira a destra, poi non fa una curva, fa la dritta la passerella, c'è bisogno di fare questo ghirigori, Io sono basito, Natali. E io non ho ancora visto lo scempio che hanno fatto, ma cazzo me lo posso immaginare, sono dimenticati questa gente, cazzo, non lo so come dire. Cosa cazzo credono di farlo più bello così? Funzionale la cosa la devi fare oltre che bella. Guarda, potevano abbellirlo pur lasciando tutti quei parcheggi. Non lo so, Nathalie, cosa passa in quelle menti malate dei sindaci o chi per loro, assessori all'urbanistica, capito? Perché c'entrano loro molto, assessori all'urbanistica. Vabbè, Nathalie, vuol dire che la prossima estate andremo a passeggiare a Platamona anziché a farci il bagno. No, invece bisogna andare con le macchine a sorso, bisogna andare, posteggiarli e bloccarli proprio in paese, chiudere la chiave e andarsene. Però poi non si risolve niente, ti fanno una multa. O fai un'azione proprio di invasione a piedi, con cartelli, picchettaggio, proprio come facevano i camionisti, i blocchi stradali. Si mettevano in mezzo alla strada, in mezzo alle... in mezzo anche alle autostrade, a piedi, e dicevano, noi da qua non ce ne andiamo. Portaci via a forza, in braccio. E prima, allora, mi sono portato il ricevitore, no? Con le bande amatoriali e con il PMR, no? Mi avevo detto, beh, qualcuno entrerà, almeno mi godrò anche le comunicazioni, mentre esce niente, non è entrato un radioamatore, non è entrato nessuno in PMR, torno al baracchino deserto. Viene voglia proprio di chiudere a chiave l'armadio, e lasciare tutto lì. No, non usarne più baracchini, non accenderne neanche più, lo sai. Mi sta passando proprio la gana. Oh, che c'è la partita. C'è Giulio e Claudio, però non possono entrare perché c'è la partita. Appena finisce già entra. Mi ha risposto Giulio pure. Visti gli quei pezzi che ho preso ieri notte. Ehi, ho visto il messaggio vocale, belli, Nathalie. Così è bello andare e prendere. A certe volte io ci stavo varie ore, andavo più presto però, e non si pigliava nulla, ma io facevo un grande errore, Nathalie. Mettevo ami piccoli, io ho visto gli ami che usa Gianni, e sono enormi. Cioè, se vuoi un pesce grosso, devi mettere amo grosso, io mettevo ami che a me sembravano grandi, ma in realtà poi si attaccavano pesciolini piccolini, capito, con quelle bocche che hanno. Bisognava mettere ami enormi, così forse prende il pesce grande. E poi l'errore mio che mettevo l'americano, lo mettevo a pezzettini. Si mette amo grosso e americano intero, come fa Gianni. Piuttosto voi cosa usavate ieri, americani? I gattini. Ami piccolissimi, microscopici. Anzi, ti rivolgo burubirì. Tu è che non ti muovi, cazzo, non vieni mai qua. Perché io non so quando rintracciarti. Se no ti avevo fatto vedere cosa ci ho trattato, gli ami che ho usato. Quei gli ami che mette Gianni è perché lui pesca a fondo. Capito là, con gli americani, io ho messo bigattini. Anch'io pesco a fondo, cioè metto il piombo e l'amo va giù. No, non emetto galleggianti in mare. No, in mare galleggiante non emetto. Perché tu galleggiante hai messo? Perché metto il salsiccione. Ascolta Marco, in mare quando peschi a fondo si evita di versi a casino, devi pescare dalla spiaggia, devi pescare a galleggiante, lo sai quanto ti diverti. E poi devi sapere questo calamento che so io, se tu metti quel calamento lì che si può regolare, cioè l'amo va a finire a quanti metri vuoi tu ed è regolabile. Più di quel tanto non va. Capito? Se tu e io stavo pescando a 10 metri e più di 10 metri non va, dove lo metto io il fermo qua? È importante fare il calamento giusto, anche quando peschi a fondo. Ciao Antonè, pensa che io quando ero al quinto pettine ho chiamato in PMR con l'antenna veicolare disperatamente, non ha risposto nessuno, non c'era nessuno, nemmeno Gio Maria, nuddu, vabbè che oggi è sabato, magari c'è chi va in campagna, c'è chi va dei parenti. Comunque l'ho vista la partita. C'è quello tra il villaggio rosso e il villaggio grigio, c'è quel bar, no, ci sono due bar, uno davanti all'altro, io sono andato in quella a sinistra e c'era lo schermo con la partita, c'era la Juve, perché ho visto la maglia bianconera, poi chi era, chi altro era? Non lo so, io non ne ho visto, perché io guardo in genere l'Italia quando c'è, non è che sono tifoso molto, capito? E quindi non è che mi interessi più di tanto. Ehi, Antone, beh, a casa sì, ho provato a chiamare anche poc'anzi, col PMR una volta tornato, ma niente, niente. Ehi, a casa, vabbè, a casa ero, perché poi sono sceso giù, ho fatto la palpa a Giampiero e sono salito qua adesso. Adesso ho preparato la cena, alle 8:15 gliela scendo giù, gliela do, e poi ce n'ero io, capito? E quindi sono sempre salendo scendendo. Oggi riuscirò a giocare, c'è freddo, ragazzi. C'è aria fresca, poi dopo mattina ce ne deve arrivare la passata di vento. Cro-cro. Antone, dimmi. Guarda se mi senti di là. No, ma troppo. Andiamo stessi. Già ti sento, già ti sento. Segnale 5-6, sì. Oh, Marco. Eia. Hai visto che già esce il mio? Già lo credo che esce. Ha voglia. Vedi che se vai già c'è qualcuno all'ascolto, per dire, no? Oia, oia. Oggi ero abbastanza depresso. Ero un po' giù di morale, ho detto, mamma mia, le giornate sono tutte uguali. Aspetta che passo il ricevitore. Allora ho deciso di fare un giro per distrarmi, dai. Ah, se mi potevi chiamare, eh. Io sto guardando la partita, ci sentiamo dopo se ci siete. Chi è? Juve? Juve, chi è? 2-0 con la Juve, dai, già sta finendo, se ci siete a dopo. Ehi, ehi, a dopo. Ecco perché anche, caspita, c'era meno gente. Anche il baracchino meno sta lì, inutile che lo porti in macchina, tanto non c'è mai nessuno. Cioè anche uscendo questa, poi sono uscito un po' tardi, me. Non so che se erano le 5 o quando era. Non c'è nessuno, non è inutile portarne, ormai non ha più senso nemmeno l'antenna di macchina, nulla. La mattina ero tutta la mattina in radio io, tutta la mattina ce l'ho io, Giulio, è entrato Tino, è entrato Franco, è entrato Valerio, tutta la mattina eravamo in radio. Vabbè, dai, terza gol per la Juve, ciao, a dopo. Ma io la mattina non ci entro, cioè io sono uscito stasera dalle 5 in poi, vabbè, avevo il ricevitore, niente, radiatori, logo, che il diavolo se li porti. Io manco il ricevitore, ragazzi. Ce l'ho qui montato, gatta, mamma mia, perché non c'è un'antenna esterna, è quello, Ci vuole. Vabbè, stavo ascoltando con quella veicolare della Diamond originale, questa è proprio Diamond, la NR770H, lunga circa un metro, acciaio inox e c'ha la spiralina a metà altezza. È un'antenna onesta, non troppo grossa, perché la SG7009 ho anche, ma è alta 1,58 m, è grossa, grossa, pesante, è proprio una spadone medievale come antenna. E non è originale però, è la coppia della SG7009, la coppia, ma è della Oxin, una marca cinese insomma. E io ce l'ho 1,50 m, è alta, cazzo, ma è troppo visibile quella. Eia, ma è bibanda, sì, che antenna è? È certo che è bibanda. Una, adesso non me lo ricordo, però funziona benissimo perché l'abbiamo provata con Claudio. Guarda, una bomba, solo che è troppo lunga. Beh, io non avevo problema a mettermela in macchina. Prima la usavo con la base magnetica da 16 centimetri. Poi ho preso questo attacco orientabile, l'ho messo a portiera, l'avvito, tolgo il tappino di plastica, l'avvito è fatta, è anche un po' più bassa, non lì. E le stazionali sono ottime, il PMR non... 1.1, massimo 1.2, ma è ottima. Poi va bene, ho sottili, quelle con la base a 3 centimetri, di cui una non va bene, e una invece è abbastanza tarata, è buona, tipo una treccia, ma ricordati, sotto il 2 tutto è ottimo, o sotto 1.5 è meglio ancora. Cosa ti volevo dire? Sì, ne ho con base da 8, con base da 10, cioè, beh, tutte in funzione del ricevitore poi, quando ancora non avevo l'attacco a portiera, usavo quelle per ricevere. Sai, quelle sottili che hanno il cavo RG174, fine. Certo, perdono un po', ma sono quasi invisibili. Ma non è necessario che sia invisibile, perché il ricevitore ormai te lo puoi portare dove vuoi. Non è più come la vecchia legge, che lo potevi detenere in casa e usare in casa. Quello valeva 30 anni fa, adesso non vale più. Ehi, da anni che non vale più. Ehi, quella che ho io è troppo grande l'antenna. Se no me l'avrei messo. C'ho la base magnetica con questa antenna lunga. Se riuscivo a buscarne una più, come dire, più corta, molto più corta, 15, troppo lunga, 1.50. Però ricordati che più lunga è, più rende ricezione e se trasmette anche in trasmissione. Guarda, sono già oneste quelle da 50 cm con la basetta magnetica. Tipo, vabbè, io ho preso le Neo-Oxin, sì, ne ho una Oxin, che caso strano è tarata per il PMR. Poi ci sono, io avevo preso tempo fa le Comtrack, no, come si chiama? Sì, Comtrack, che poi sono tutte uguali, le puoi chiamare Proxel, Comtrack, sempre 50 cm, spiralina a metà, RG58 meccavo, basetta da 8 cm circa. Hanno una resa onesta in ricezione, onesta, perché sempre 5 ottavi in VHF, no scusa, 5 ottavi UHF, in VHF credo che sia un quarto d'onda, sì, un quarto d'onda. E ne trovi dei prezzi più disparati. C'è la Diamond originale, poi già sai il Diamond, però io sempre che ho preso la Oxin CO201, proprio perché era tarata per il PMR, perché non era 430-440, ma era 430-450, quindi il centro banda ce l'ha intorno ai 440, capito? È perfetta per il PMR, per parlare lì. Vero Bombonio? Au, solita storia. Va bene, va bene. Poi, mi sono dimenticato anche quella. Avevo preso la Fasulla, Diamond Fasulla, CR6009, però non funziona né in 50 né in 29 MHz. Fa solo VEU. E anche quella è abbastanza tarata per il PMR. E quella è lunga tipo 1.20, molto grossa anche quella, molto pesante. Alla fine, guarda, la migliore, il rapporto peso-prestazioni è sempre la NR770H, un metro di lunghezza, non troppo grossa, ha la giusta, il giusto spessore, poi c'è inox, quindi è eterna. È un bel acquisto, dai. Poi la puoi mettere come vuoi, base magnetica, l'attacco piede, quindi ho compasso magnetico o attacco quello che ho detto io, funziona sia a baule, a cofano o a portiera, puoi entrare in tutte e tre le direzioni. Ah, ahi mia. E vabbè, dai, comunque la Juve sta vincendo. Sono contento. Eravamo pujati di me, tutti lì, in quel bar a vedersi la partita. Mi sono pigliato un caffè e basta. L'acqua c'è la buona macchina, una bottiglietta d'acqua frizzante. Non conviene mettere la bottiglia grande in macchina di acqua, perché poi diventa puzzinosa se non la bevi entro pochi giorni. E conviene portare la bottiglietta piccola, almeno te la bevi durante un'uscita, te la bevi tutta. Va bene, a Popponio sei entrato? Squalo, ci sei l'ascolto, dottore Squalo? Non vuoi nessuno? Va bene, non fa niente. Signor. Insomma, dai, ti stai dilettando. So che Natali, vabbè, tu dici, so a quanti metri è l'amo, no, col galleggiante. Però non sai il fondale, quant'è, perché puoi beccare anche una secca. Vabbè, comunque, se hai pescato, vuol dire che è ottimo il calaggio, o calamento, come l'hai chiamato, quello che hai fatto tu. Me l'ha fatto vedere un amico e con tutto ieri c'era anche il vento, quindi corrente, abbiamo pescato poco, se no chissà cosa mi abbiamo tirato ora. Abboggiami, 9 più 10. Cosa? Non lo senti questa propagazione, cazzo ogni segnale, 9 più 10. Non l'ha sentito, all'anima. Negativo, non l'ho sentito. Se è sordo questo baracchino? No, anzi, forse guarda che non abbia l'RFG in un po' abbassato. Io sempre metto, ovviamente sempre sta manetta, l'RFG deve stare alto, è come che fosse un baracchino senza RFG qua, deve stare alto perché sennò è inutile. Vabbè, tu sei più in basso come posizione, un po' più chiuso. Sono sempre spagnoli questi che arrivano, sono una dannazione, ci sono sempre solo loro. Poi sai, io per la Spagna sono aperto e purtroppo non arrivano loro. Avrei voluto essere aperto per l'Italia, per tutta la penisola, invece c'ho Pulicenda che mi chiude. Io ho l'antenna bassa e quello è anche. Dovrei sollevarla. Se metto d'accordo con quello là, lo so io cosa fare. Comunque quando sono passato, caspita, guardo verso su, è impressionante mi vedere con l'antenna. Le radiali sembrano palle di elicottero, lo sai, siccome tu ce l'hai appunto non molto in alto, sembra enorme l'antenna. Infatti, vorrebbe 2 o 3 metri più su. Eia, però l'importante è che ti faccia mettere i tiranti, perché quando la alzi risenti più dal vento. E ci vogliono più tiranti. È un lavoraccio comunque, Natalipo. Non lo so quanto ti convenga, tanto io di ex non ne sto più facendo, ma ne sono scesi anche quelli di ex. Solo con l'Italia sì, può far piacere scambiare due parole, ma dalla Germania, perché tanto i tedeschi parlano tedesco, i francesi parlano solo francese. Sono molto nazionalisti per la loro lingua. Anche francese ho notato, con loro devi parlare francese, con i tedeschi devi parlare tedesco. E allora piglia te prendi queste O. Ma io, i tedeschi cosa parlano? Il tedesco parla. Spesso sì, a meno che non conoscano due parole di inglese o di italiano. Però quando entri in un loro canale che parlano FM, loro parlano tedesco. Salvo rari casi, e i francesi lo stesso, quando fai di ex, loro sono molto nazionalisti per la lingua, capito? Non parlano inglese, io invece chiamo in inglese, non chiamo in italiano quando faccio di ex. Ah, così è, e allora, già va bene, dai, 3-0 con la Juve, primi di nuovo in classifica da soli. Già va bene, Giulio non si è sentito. Come sta la partita? Io ho Antonello sul canale 20. Antonello viene al canale 10 perché ti disintegro, che sono col baracchino, non rompere le palle. Ma infatti in PMR avevamo detto guardate che siamo sul 10, ma sul 10 poi non è venuto nessuno, deve essere che sono allergici al 10 alcune persone, capito? A me se non vi basta mi va di non piacere. No, ma Antonio lo sa, quando ci sono io al canale 10 lui deve parlare assieme a me, perché io ho sempre fatto la stessa cosa nei suoi confronti. Quindi se lui se ne va al 20, che vada al 20 vuol dire io cambio radio, do potenza e ciccia, capito? Adesso c'è un concerto qua, c'erano tutte le luci, c'è la festa qua di quartiere, bello, luci, ah ma, luci psichedeliche, altro davanti, attaccato all'albero, la luce, Beh, meglio per te. Cos'è, una festa di quartiere? Sì, ogni anno la fanno. Festa di quartiere qua c'è, in Piazza Aldo Moro. C'è un vincente, già vedo qua dalla finestra. E dal dottore Barra che stanno sino a mezzanotte, capite? Mia domani quando andare al lavoro, ma comunque non mi davano fastidio. Ascolteremo un po' di musica, intanto sono sicuramente quattro zingari. Lavoro, ma tu non eri in ferie. Io in ferie li ho finiti, già messi, me ne ero via un mese a me di ferie. Ah, io non è che posso sentare per 15 giorni, assolutamente. Ho fatto da lunedì a venerdì, oggi sono a riposo e domani rientro, di domenica, capito? Perché mi tocca e quindi devo rientrare. Quindi siccome c'è guastato il tempo le ferie te le sei fatte a casa, niente mare, niente di niente, niente Isola Rossa o cos'era, niente saline, lei tempo stronzo e uno si piglia le ferie e fa brutto tempo, è il colmo, è sempre così. Vabbè, ho fatto un giretto alla famiglia e basta, niente di particolare, Marco, a me il mare non mi interessa. Non mi interessa, capito? Le mattine sì, uscivo così, commissioni, un po' in giro, a destra e a sinistra, però sono stato a casa, mi sono riposato, ho staccato un po' la spina, adesso domani si riprende, anche se fa tempo brutto non ce n'è problema. Io la domenica faccio un giretto di controllo dalla parte bassa alla parte alta del mio distretto e poi me ne rientro a casa. Niente di particolare, capito? Già non sono a pare picco. E me è stata lì. Ehi, non mi tocchi a tutta, no, stanno infatti tutto là. Sì, ma è un vecchio, torna in frinta del bosco, ho tutto magnato già. Tua moglie. Oh, allora sai quello che ho preso ieri, l'ha dato a quella di fronte, mia moglie, perché era due giorni mangiando pesce. Beh, quello che ho preso ieri notte è lo stesso. Oh, l'ha dato a quella di fronte, l'ha dato. Ah, ho capito, mentre l'altro invece c'era mangiato, quindi chiaramente. È così. Già va bene, dai. E cosa vuoi fare? Se non piace, è inutile che è così. Va bene. Quindi Marco, ti ho sentito che è un po' in paranoia. Come mai? Qua le giornate sono sempre uguali. Poi sto molto in casa. Sì, un po' depresso. Perciò sono uscito a vedere il mare, a farmi un giretto. Purtroppo le amicizie sono quelle che sono, capito? Ma già sono contento, poi sono tornato, ho mangiato pesce, tanto per cambiare. Adesso mamma sta pigliando un vizio brutto e ogni tre giorni, un giorno pesce, un giorno pollo, un giorno pesce, un giorno pollo, tranne un giorno che si è mangiato qualcosa di diverso, basta, è una dieta più varia. E poi io voglio pasta, a lei la pasta non piace, io voglio pasta, pasta alla carbonara, pasta ai funghi, pasta come ti vuoi, basta che sia pasta, e voglio pasta, a me piace la pasta. È come il pane, ci puoi mettere quello che vuoi, pasta alla ragù, pasta alla marasolchi, e non me ne fa mai, capito? Mi sa che me la cucino io in camera, mi chiudo, c'è il fornellino a gas, mi chiudo in camera, mi faccio il pranzo io. La carbonara la fai fare? No, me la compro già fatta, pronta da scottare in padella. Pucci, fatela tu, cazzo, te lo insegno io come si cucina e vedrai che tu mangi quello che vuoi tu. Eia, vabbè, non è che sappia cucinare io, posso fare cose molto primitive. Vabbè, Natalie. Eia, purtroppo, poi un'altra cosa, ha fatto questa insalata di riso, lui la faceva sempre bene, ha fatto questa insalata di riso ieri, un schifo, questo riso mezzo crudo, tutta questa acqua che c'era nell'insalata, uno schifo fatto, non so cosa c'ha, sembra che stia regredendo, capito? Le cose sapevano fare bene prima, adesso non le so più fare. Sì, ma scusa, non ho capito io, la pasta ci vuole, Marco, la pasta ci vuole, capito? La pasta ci vuole, due pennette, così, cosa ci vuole fare? Fare due pennette, due cose, la pasta carbonara è la cosa più facile al mondo. Beh, non te cambiamo parte, ci metti la cipolla, la pancetta, il burro, sciogli tutto, capito? Nel frattempo ti sbatti un uovo nel piatto, tutto assieme, bianco e rosso. Quando è cotta la pasta, ci butti prima la pancetta col condimento, l'uovo aspetti qualche secondo se non ti si cuoce, e poi ci butti anche l'uovo in mezzo, giri tutto, e sei a posto, se c'hai una buona pasta, nutriente, tanto bollo, pesce, pollo, pesce. Radio, nella carbonara non ci vuole la cipolla, bisogna saper fare bene il procedimento, altrimenti fa un casotto. Se tu mangi i sei pozzi, l'hai imparato da un cuoco, ti mi ringhiriditi. Natalino, fai la brava perché ti ha sentito in aria e sei bocciato. Ma buffo Remesi, anche io vado in casa e ero cuoco, bisogno di guppiare da un cuoco, faccio. Ah, se sai cosa sta preparando stanotte? Ah, sta facendo i fiori di zucca al forno ripieni, che io non l'ho mai visto, ma solo dal profumo è una cosa allucinante. È sbagliata, la carbonara originale è senza cipolle, a scommessa, e Pirri di brutto. Anzi, di là è l'aria, che l'aria è più aspetta. Io pure la faccio con la cipolla che andava ancora non la sapevo, vabbè, a dargli più saori. Però se tu assaggi quella che faccio io ti mi ringhiriti. È questione di gusti personali, a chi piace la cipolla la può mettere, a chi non piace non la mette. Quindi Claudio, Ilaria è una cuoca provetta, così è. Ilaria è una cuoca provetta, ha fatto l'alberghiero, è una professionista, è il suo lavoro, capito? È una professionista, sa cucinare bene al vero. Sì, Natali, anche lei me l'ha detto, è facoltativo, però i cuochi, lei ha visto i cuochi che la mettono spesso e quindi ce la puoi mettere tranquillamente. Se vuoi non la puoi mettere, nella ricetta scritta non c'è la cipolla, però è un ingrediente che molti cuochi mettono e quindi chiaramente se vuoi la metti, se no no. Io ho provato con e senza Natali, ma con la cipolla è la fine del mondo. È una rivisitazione della ricetta originale, anche io la so fare con la cipolla e la facevo così per dargli più saori, è spettacolare, io lo so, però la ricetta originale non ve n'è. No, per iscritto no, però molti cuochi la mettono come aggiunta perché dà questo gusto al soffritto con la pancetta ed è molto più buona, capito? Però già mai capito, è così, va bene, va bene, va bene. No, Marco, lascia perdere qua. Ma anche ieri mi sembra ha fatto i peperoni al forno con queste acciughine dentro in mezzo. Ma se tu consideri che lei prende il pancarré lo passa col mattarello e fa degli involtini. Pane per tramezzini, veramente non pancarré, pane per tramezzini, quelli morbidi, li passa col mattarello e li fa ripieni e ti fa messi al forno, diventano delle pizzette ma ripieni, cioè arrotolati con lo stecchino, una cosa da favola. Beato chi la sposa, e quello sì, una che sa cucinare, Iarugridu. Comunque, anche la pancetta è sbagliata, perché ci vuole il guanciale nella carbonara e noi soprattutto non ci vuole olio. Ha ragione, Ilaria l'ha detto, va bene, sì, ci vuole burro, ci vuole olio. Sì, beh, andate lì, guanciale, ma il guanciale non dà nessuno, capito? Allora, tutti siamo fissati con questa pancetta affumicata e ci mettiamo quello, infatti. La verità è che ci vuole il guanciale, certo che sì, il gusto è molto più buono, però è così. Marco, guarda, mia moglie, quando c'è mia figlia a casa, è tutta la settimana l'aria a casa in ferie, si è rilassata tantissimo perché ha sempre cucinato mia figlia, e tante cose mia figlia gliele corregge a mia moglie, nonostante sia una brava cuoca anche lei, per carità, però tante cose gliele corregge perché nella pratica, nella gestione della cucina che lei ha sempre visto, ha sempre fatto, ci sono degli accorgimenti che magari non mia moglie non mette, capito? Non mette. No, molto bravo, molto bravo, molto bravo. Se no, quando mi rimario, non cago già di voi, là, io vengo a cena, però fammi le pennette, radicchio e gorgonzola. Mamma mia, come sto! No, io sono. So cosa fare, so fare cose primitive, boh. Poi sono stato 10 anni solo, ma non. Facevo cose molto molto semplici, oppure mangiavo da nonno perché dice visto che sei solo vieni a mangiare da me, e allora andavo volentieri, mettevo in tasca i soldi che mi dava mamma per mangiare e mangiavo da nonno. Vabbè, però la cucina per molti è una rottura di scatole, per chi è portato, per chi soprattutto come mia figlia ha scelto quel lavoro, perché fa anche sale al bar, anche al bar è molto molto bravo, però in cucina ha imparato da scuola come lo faceva appunto i rientri, poi lì all'alberghiera c'è la cucina, quindi loro facevano proprio, cucinavano, capito, si esercitavano a cucinare e quindi è diventata molto brava. Dimmi, vabbè. Il guanciale è grasso, quindi io non lo uso per la carbonara perché è troppo grasso. I chef usano quello, ha detto, capito, ma corretto, però lei non lo usa perché è troppo grasso e quindi usa la pancetta con la fumicata proprio a quadrettini che sia tutto carne. Rosso, un attimo, devo andare a prima. Oh Claudio, pensa che zio Salvatore, che era una schiappa, non sapeva fare il caffè, non sapeva fare l'uovo fritto, metteva mezzo litro di olio e ci buttava l'uovo dentro. Mezzo litro di olio, senza scherzi, e vedevi l'uovo nuotare nell'olio, uno schifo, proprio un uomo che nonostante abbia fatto la prima guerra mondiale, forse anche la seconda, non lo so, se l'abbia fatta attivamente, non sapeva cucinare, non sapeva farsi un caffè, una cosa vergognosa. Mamma mia, già sento mia figlia, detto, mamma mia, come faceva a campare. Io con, perché sono stato più di un anno da solo in trasferta a Cagliari, quindi cucinavo, facevo, io so fare un po' di tutto, anche molto bene, capito? Mi arrangio in cucina, insomma, mi arrangio abbastanza bene, senza problemi, qualche accorgimento me l'ha sempre corretto in aria, però mi arrangio abbastanza bene. Non muovo di fame, dai, non me ne faccio uova al tegamino, io so cucinare in tutti i modi, il pollo, so fare il riso in tutti i modi, la pasta in tutte le maniere, non ho problemi, non ho problemi, va bene che va bene. A me sta lì, a me sta italiana, che è Concetta, rientrata col cane? Magari è la scomposta. Io che c'è ora, mi sono atteso. Hai visto come ha cambiato la serata? Io sono uscito a portare il cane a Mike e corto i pantaloncini. Un venticello di... sembrava l'invece e scirocco misto, caldo. Adesso si stanno aprendo le nuvole e sono convintissimo che durante la nottata o prima mattinata io parto lavoro con la pioggia, capito? Con la pioggia. Però se non cambia, temporale non ce n'è. Ci sarà acqua, ma tranquilla e serena, perché non c'è vento e la giornata è anche abbastanza calda. Infatti è salita la temperatura, erano 21, in termini un 23,5, capito? Eia, guarda, il mare era un bijou, era calmo calmo, era solo accarezzato da una breccia che veniva tipo dal nord-ovest, ma era un bijou il mare. E stavo dicendo a Natalino, lo scandalo del quinto pettine e adesso anche del quarto, hanno fatto una mini rotatoria dove ci saranno macchine che puoi contare sulle dita di una mano, perché il resto l'hanno chiuso, non so cosa ci hanno in mente. Poi al quinto pettine non ne parliamo, hanno fatto una mini rotatoria dove puoi parcheggiare e poi hanno fatto tutti questi stazzi con legno, questi stazzi per le pecore, che non ho capito che senso abbiano. Doveva essere cotto il sindaco di Sorso, o fumato, o cotto e fumato, perché uno schifo, hanno rovinato il quinto pettine, non c'è più parcheggio. Quelle praticamente sulla strada che sono fatte in legno, purtroppo nella panoramica non si può mettere guardare in ferro, capito? Non si può mettere per la sicurezza il guardrail in ferro, quindi ci vuole quello in legno, e quindi loro hanno fatto queste staccionate per abbellire, ma soprattutto per far sì che insomma qualcuno non ci scenda in cunetta, oppure se ti sbatti si entra dentro la cunetta, capito? Ma lì è una cosa, tu ci sei stato al quinto pettine? Guarda com'è, fai il vialetto per entrare, come si chiama? Uno schifo, hanno diviso questa grande area sabbiosa, tutto in stazzi, proprio stazzi per le pecore. Non so perché hanno fatto, poi hanno fatto questo pontile anziché dritto e tutto a ghirigori, prima a sinistra, poi a destra, poi fa una semicurva, non capisco perché tutto questo giro quando bastava fare un pontile inclinato dritto. Non lo so cosa, sicuramente l'ha fatto il sindaco o chi per lui. Non c'è più posto, qui troppo era pieno di parcheggi, adesso non ce n'è più, saranno 7-8 parcheggi dove si gira proprio. E poi ricordati a Plaza Mona, no? Tu arrivi alla rotonda, vai a destra, no? Dove c'era l'oro do Brasil, no, tu vai lì, vai sempre dritto, poi c'è un gomito dove c'era una specie di ristorante o alberghetto. Lì prima si mettevano tutte le macchine in fila, adesso hanno fatto un enorme marciapiede con tutti i blocchetti di cemento per non parcheggiare. Prima era tutto un parcheggio lì a fianco al mare. Cioè pensano che la gente vada lì in estate per passeggiare sul marciapiede, ma quando mai sono così imbecilli da noi? No, io l'ho visto lì una volta che sono passato, però praticamente stavano iniziando a fare queste cose, capito? Se tu mi stai dicendo che hanno chiuso tutto ed è un casino, è bruttissimo così. Cioè, tu arrivi lì a quel gomito, no? E c'è la corsia per passare a senso unico e poi a sinistra tutto marciapiede, tutto marciapiede dove prima ci mettevano le macchine e i pedoni, ti assicuro che ci passavano tranquillamente, tutto un largo marciapiede, poi con i blocchetti quadrati per non parcheggiare sul marciapiede. Cosa ne frega la gente in estate di avere un marciapiede? Fai i parcheggi, devi fare parcheggi, se vuoi falli a pagamento. Non lo so, ma non ha senso tutto questo, quest'area pedonale immensa. cosa diranno tutti alla gente di passeggiare su marciapiede in estate? In estate servono parcheggi, parcheggi e parcheggi, parcheggi al cupo, non marciapiede ovunque. Parcheggiamo tutti. Vabbè, orecchione, mi stavi splatterando, non ti permettere più, capito mi hai? Che cazzo ti splatterando, con te mi rendo pure. Va. Ciao, club, ben rientrato. La partita su cui come intervenire? 3-0 per la Juve. No, Antonè, c'ho il baracchino. Ti sento, cazzo, siamo troppo vicini, ti sento. Però mi facevi un battimento e basta, dai. Ti ho visto che stavi chiacchierando lì sul 20. No, infatti ho detto, se si trattiene ancora, cambio radio. Col 440 non ti sento, ma col baracchino sì, Antonè. Se lo sai, noi ci siamo sempre rispettati, quindi non abbiamo problemi. 3-0 secco a questo Chievo Verona. Cazzo, mi volevo vedere Sampdoria a Roma stasera, e invece l'hanno rinviata. A Genova sta diluviando, e quindi hanno rinviato la partita. Ah, non ha male. Ho visto che sta diluviando. Immaginati che è passata le fulmini. Che ci sarà, di là, un pezzo di chiesa ne ha buttato in terra, meno male, bisogna stare attenti. Io già adesso faccio tutto, tutto sto patato ci metto i cavi. No, io infatti stanotte quando prima andare a letto, io ce l'ho stacca antenne, metto a zero il neutro della Meritrong, a zero il neutro della T230, però stacco anche l'antenna del radio, i cavi, capito? Perché non si sa mai. Domani non adatto al temporale, però adatto pioggia, quindi non si sa mai, che bisogna stare attenti, lascio il baracchino attaccato, così si entra anche carica dell'antenna, si carica già l'altro baracchino, ma gli HF stacco tutti i cavi. Vai Marco! Ciao, bentornato Antonè, ti avevamo chiamato anche. Ascolta, avevi poi saputo questa notizia dell'Ari? Niente saputo. Dell'Ari? A Claudio, questa notizia, questa novità dall'Ari, associazione radioamatori italiani, poi l'hai saputo. Claudio, va bene, si è allontanato. Natalino, ci sei? Guardate, io stavo andando a pescare, pescavo lui la canna, in due, come faceva la torre sciopente, quando uscivo, andava lì a pescare la guatamona, si metteva fianco a lui, lui pescava e l'altro che c'ha il fianco nulla. Con la canna si pesca, con la canna di dietro. Eia, Claudio, ci sei, forse sta parlando in verticale. Ma che giorno Marco, che non sai cosa fare, andiamo in barca. Con la canna da pesca. Andiamo con Nicco. Con quella barca che c'ha a vela. E andiamo a pescare. Eia. Quanti metri è questa barca a vela? Ma una barca... barca proprio barchetta di legno o una barca vera e propria? Una barca di legno, abbastanza grande, c'ha un coso, è andato vivo 15 metri per la vela, quindi figurati, è abbastanza grande la barca. Lui sta l'altro giorno, perché sono andato lì al produttore insieme a lui, tu immaginati che per salirci già talmente non ero più abituato, che c'erano le gambe che mi tremavano, molli, poi quando ti passano a fianco, mamma mia, per saldare un PL, la mira vuol pigliare. Ma dove Antonio? Giù al produttore, nella barca di Nicco. Gli ho messo l'antenna nella barca, gliel'ho piazzata. E stavo proprio alle baracche, ma non c'era alcun carico, non credo. Adesso ci dobbiamo ritornare. Gli ho portato i portati l'altro giorno lì, così facciamo le prove, dato che io non c'è il portone, se non c'è nessuno, facciamo le prove, io ti tengo in macchina tu e io rimango sopra la barca e facciamo le prove fin dove ti sento. Beh, bastava chiamarmi, io andavo sul canale 8 con quello grande, con 275H, e un controllo te lo dà, insomma, un controllo si può dare, non è che sta lì a parlare, Vedevamo un pochino se tutto andava bene. Sì, vabbè, c'era anche la batteria a mezzo scarica, perché visto che la luce se ne scendeva, è 5 mesi che non ho carica, che figurati. Infatti io ho detto, adesso mi richiamo la batteria, ogni questo giorno ho detto, Ricco, chiudi la mattina, il circolo orario di lunedì, lascia tua moglie lì al circolo e poi noi andiamo di là. Presto, così facciamo le prove. Si può fare, Antonio, non ti preoccupare, quando serve un controllo così e faccio la voce su qualche barca, c'hai il mio numero o mi manda un messaggio su WhatsApp e io ti do il controllo che ti serve, capito? Sì, c'è un telefono scarico, l'ho caricato il primo di questo mese, 7 giorni, 10 euro, e quindi non ho capito perché, se non c'ho la, non sto usando internet, non sto usando niente, stavano mi avevano mangiato 10 euro. Adesso la prossima ricarica, ma ne carico 15 e chiamo 160 a vedere se ve lo fa pigliare per il culo, dico. Allora, posso essere 10 euro e 15 euro, se no dico cambio gestore, a un certo punto non mi conviene più, dico, ogni volta 15 euro, quella volta. Non si conferma. Claudio? Tu? Ho detto, prima non avevi risposto. Sei saputo questa notizia dell'Ari? Non hai saputo niente? No, negativo, assolutamente no. Dovevo andare domani che mi hanno invitato a questa manifestazione a Ittiri, dove appunto c'è anche quelle persone lì. Però io sto lavorando la mattina, non ci posso andare. Però domani mattina, nell'arco della mattinata, lo chiamo per capire, insomma, se è qualcosa che mi può interessare, non per... non me ne affutti nulla. Se è qualcosa che interessa anche a me, se no, niente, capito? Eia, magari è una fesseria, me. Magari è una fesseria, proprio, va bene, dai. Ma tanto io non sono radiamatore, mi potrei dire, a futtitini, non gliene chiedere nemmeno. Natalino, sei rientrato? Fa betta, me che c'è pomponio anche me. Lo puoi usare come esca. Che sicuro. A conca mu. Va bene, là. Adesso vi lascio, scendo giù, vado a mangiare a Giampiero, sembra ci sentiamo dopo su C7, là, il 27, se no mi tocca scendere i miei potatile giù, in PMR. Ok, vi chiamo dopo, al limite, là. Ok, ciao. Ciao Antonio, a presto. Buona serata, dai. Via, a tanto, ciao, a dopo. Comunque stava bene, molto bene. Là, io ero proprio ai minimi termini, pantaloncini, maglietta e sandali. Altro che mettere pantaloni lunghi, scarpe chiuse, ancora non se ne parla. No, ancora no. Vabbè, a parte i giorni di freddo, di pioggia, allora sì, posso capire. Vediamo quanto dura. Oh, il mare era bello, mannaggia. Solo che non è più voglia, ma con mamma, mai. Invecende. Sì, ascolta, tutti dobbiamo invecchiare. Pensa che io sono già ricoglionito adesso, pensa, quando avrò 70 anni, se ci arrivo, 80. Sì, già ci arrivi. Ma mi sono fermato a Platamona a fare un giro alla rotonda, se no c'era quella megera che mi chiedeva soldi. Me lo offre un caffè. No, non ho monete. È uscita lì. Ah? Così gli hai detto? No, una volta, due o tre volte gliel'ho detto. E lui sempre chiede, me lo offre un caffè? Non ho monete. E chiamami quando passi. Poi ho visto, sono passato a fianco a Torucca, lì c'erano tutti quei negri buttati lì all'ingresso senza sapere cosa fare, mamma mia, il covo c'è lì. E non lo sai che sono ospitati a Torucca anche. E quindi erano buttati certi 3 o 4, 5, quanti erano buttati lì all'ingresso. Non sanno manco come passare il tempo questi qua. Poi hanno... arrivi alla rotonda, no? Cioè, sei nel vialone, anziché arrivare alla rotonda giri a sinistra, no? C'è quel pezzettino davanti a Ernesto, no? Al ristorante, no? Prima non era divieto, anzi c'erano disegnati uno stallo invalidi e un parcheggio bianco, hanno disegnato sopra la vereccia bianca. Beh, hanno messo il divieto di sosta in fermata anche in quel pezzettino. E tanto è vero che l'altro giorno avevo parcheggiato lì, ho detto ci pigliamo un caffè. Beh, sono arrivati i vigili urbani e stavano per fare la multa che era lì, compreso io. Allora in fretta mi sono avvicinato e ho detto, ma io sapevo che iniziava da lì, vari metri più in là, cioè anche da lì, inizia da lì, l'hanno fatto da poco, capito? Proprio per fare multe, gli enescano gli occhi, gli enescano, ma poi non davano fastidio le macchine, cosa stai a multare? Proprio è per fare cassa, Claudio, è una cosa schifosa proprio. Non so perché stanno facendo così. Beh, secondo Natalino anche questi, tutti questi marciapiedi che hanno messo sulla prima l'idoilide per fare cassa, così la gente ci mette i parcheggi, cioè in zone dove non devono parcheggiare, passano e fanno multe, multe, multe e arricchiscono le casse del comune. È il sindaco che gli ha tagliati i vigili urbani a fare multe a nastro per fare cassa, da quando c'ero io mi sono sguinzagliati. Oh, ma quindi vuole soldi il sindaco, perché non manda la moglie a dare il QSO, così si fa i soldi il comune? Qua, meglio la morte, quel sindaco è un'esimia, già lo sai. Sì, ma poi ti dico Natale che un sindaco vale l'altro, me. Perché roba buona per Sassari. Sassari sta andando peggiorando, è Piazza Tola e zona pedonale, prima era bello quando c'era il mercatino tanti anni fa, adesso è zona pedonale, si innesce alle locci, tutto pedonale, ma la gente vuole andare in macchina, cosa tiene a furti di fare tutto pedonale? Boh, o ciclabile, me, un altro, piste ciclabili, boh. Poi in via Zanfarino l'ho fatta, ma cosa fai la pista ciclabile in via Zanfarino, che è una via stretta? Boh, lasciamo perdere poi bestemmio. Sì, lascia perdere. Va bene signori, io vi saluto, vado a cenare, dai. Ciao, a domani, statemi bene e ci sentiamo, KK. Ehi Claudio, dai, ci sentiamo. Buona serata, buon tutto. Domani un'altra giornata così buttata, domenica, vabbè si vedrà, sento odore di arrosto qua, qualcuno sta arrostendo formaggio o cos'è, beato lui, va bene, e Natali chiedo anch'io, dai sono le 8.25, 26, ci sentiamo domani, dai, ciao a tutti, Claudio, Natalino, Pomponio, chiunque all'ascolto, dai, ciao ciao. Ciao ciao Marco, vabbè, andati via a piede, ero andato a mangiare Marco, anch'io sto chiudendo Natalì. E ok, dai, ci sentiamo domani, ciao ciao Natalì.